assurdi a Cicino, sta uscendo qua a trovarti. Sono assurdi a Cicino. Oh, just faccia le yo-yo, dai. Dato la calmata, gira il canale, vai, dimmi, cosa sei chi con la musica. Parlo con tu, che lo sai. Che la scisa si risparmia. Quelli, diciamo che è raro trovarli, e quelle diciamo prenatelo, che cosa c'ha, è vecchio, molto, molto vecchio quello lì è anche morto, non si trova neanche quello che sta cantando adesso, è morto anche, e non sono recenti quello lì, quell'altro ovviamente non è recente, quello lì è vecchio. Sì, ma io nasce più vecchi di quelli, sì. C'ho dei CD o vecchi di cantatori che lui si risogna, e il portantista con la musica si risogna, capito? Io li ho proprio vecchi, ma vecchi però. Positivo, dillo a Pinocchietto che venerdì abbiamo la sagra della vitella qua a Ottava. Se c'è qualcuno che viene a cucinarci, la butto giù. Dillo c'è. Adesso c'è la sagra della vitella lì a Ottava. Adesso se c'è qualcuno lì da butto giù a cucinarla. Allora se macchina alzata lì. Allora se comprate i coglioni, con questa cazzo importante, io sparisci dalla frequenza, io. Va bene. Noi purtroppo più c'è, siamo piccolini. Siamo piccolini più c'è. Gappa. Allora Gigi. Passiamo, dai. Stiamo rilassando. Ci stiamo rilassando. Gappa Roce. Quelli di Deluso non fa coccarmi nella giugana, solo adesso no, è troppo presto, capito? Però io ci sono andato, erano le 11, lo sai, sono con il gatto e alle 4 mi sono alzato e vedo più riposato, diciamo stamattina era più umile la situazione, mi sono andato presto un po', e forse erano le 11 meno un quarto, così che di notte. E ho dormito un po' di più, se non è quanto ho dormito. Già va bene, almeno ti sei alzato un po' riposato, dai. Io me l'alzo appena, allora devo andare a fare i latti, no? Dovevo che fare i latti. Un'ora e mezzo, appena alle 7:30, alle 7:30 apre. E un quarto più tardi domani mattina. Kappa. Già va bene. Se parto un'ora più tardi. No, un'ora più tardi e via. E alzo alle 5, mi salta me alle 4. E parto alle 5, 5 e mezza. 6 e mezza e 7 e mezza, no, troppo chizzo, io dico a partire più tardi, quasi alle 6, pitellotto, sotto io, ma se faccio pure di sì, andare, se manco qua. E a voglia, andare, sì. Pizza un continentale, ho dato una dritta e stavo andando lì a San Camillo e l'abbiamo accompagnato al posto, dai. Positivo, dai. E chi era? Non si sapeva. No, continentale, un tipo che si chiamava Vicenza. Parroccio. C'era anche Paranautica, Giannuzzo, dai, da senso va a marcare a Ulpia, la Iri qua. C'è Parroccio. Yes. così, fate già questi piatti. No, deve essere ancora faccendato, Gappa. Poi c'è... Ah, Romene di Sesi, e te, tra cos'è se lui? Tranquillo e sereno e senza stare a rompere le palle a nessuno. Sì, va bene, però perché scherza, anche perché io scherzo molto, però già non è che c'entro molto nella salute, dai, non è che ci sto molto attaccato a questa radio, già vedi che non è che ci sto molto, perché sono sempre fuori, qualche volta entro così, però non è che mi importa più di tanto, ho visto, non è che vedo che sono così accanito, però a stare lì a dare fatti dall'altro già non ne ho tempo da perdere, mi capito, da dedicarmi a stare dando fastidio, no, non è, no, per me è un giramento di scatole per me stesso, mi capito, mi annoierei. Gappa, infatti, è così, cioè, è un gusto che non va bene, dato al momento importante, no? Stai facendo una cosa buona. La cosa buona la fai quando non fai le pernacchiette, entri, ti fa la tua modulata, tranquilla e serena. Certo, quando dici la cosa importante, fare le pernacchiette come stava facendo, signora la persona, perché è già un imbecille che si nasconde dietro un cavetto, capito? Perché magari affrontare la persona personalmente vuol dire che non c'ha le palline sotto. Tutto qua, detto questo, non me ne può fregare meno, non ci stanno problemi. Quando si vede che la cosa sta sporcando, io giro il tastino e buonanotte a tutti. Io comunque però comunque c'era Franco lì a Cagliari che per esempio sul 5 pigliava e metteva la musica, però se te ne andate un altro canale non voleva rompere le scatole, però decideva di non parlare nessuno del 5 e metteva la musica, capite? Se, però te ne andavo e non ti seguiva, non veniva, non ti spostavi, no, infatti quando girava a volte così nel 5 metteva sempre musica lui, capito? Sempre musica, però a un certo punto sono scocciati, non è come qua il Sassari, no? Là c'è più movimentazione di mezzi, di cose, del 5 lì a Macedonia, il 5, tu ce l'hai presente il 45, lì non si capisce nulla del 5, bisogna cercare altre alternative perché ce ne sono troppi modulati, se vai a parlare sul 5 non ci riesci, ti devi spostare su un qualche, se devi chiedere una informazione, ti devi spostare a quel canale perché a Cagliari non è possibile. Beh, perché ci sono molti camionisti molto, capito? E non è possibile parlare sul 5 e trovi più liberi gli altri canali da 7, l'8, il 22, il 35, capito? Quei canali li trovi più cose. E sul 5, se sul 45, quei canali lì, a volte ci spostiamo, si sposta anche sul 50. Perché c'è più movimentazione, capito? Però questo cosa faceva? Metteva sul 5, metteva la musica, con il microfono a tavola, schiacciava e lasciava la musica a tempi, sempre a tempi, capito? Si sapevano chi era, perché a volte lui stava parlando e diceva adesso mi metto musica, non diceva, lo diceva pure, capito? E allora sapevano chi era, qualcuno poi si è girato le palle, è andato lì e gli ha dato due fucilate e gli ha buttato a terra. Ah no, perché bisogna anche darsi una calmata, dai, cazzo. Lo scherzo va bene fino a un certo punto, Gigi, poi riesce un po' pesante, dai. C'è Eugenio, no, attenzione, Eugenio sarebbe Salvatore, che è andato anche è uscito anche in televisione, è andato alla Maria dei Filippi, questo qua, che a cercare una donna, che aveva una ragazza, che lui diceva che aveva tanto quando era ragazzo, questo qua. Questo c'era tanto una chiesa lì, e deve essere, ma non è che dava fastidio agli altri, dava fastidio a qualche televisione, a qualche cosa dava fastidio. E glielo diceva, guarda, mi sta dando fastidio questo. Però, e cosa è successo? È successo che parlata due volte a questo qua, però non perché metteva portate, perché dice che sono a qualche televisione, ah, gappa, senz'altro perché disturbava, gappa. Se viene il giorno alla festa quello lì lo sai, abbiamo evitato, non so se scende oggi, se viene. Caro amico mio, ti voglio tanto bene, Gigi Vulcano, ti auguro tanta felicità, Gigi Vulcano, mi ascolti, Gigi Vulcano, Gigi Vulcano, mi ascolti, sono torre di controllo di San Basilio. Vabbè, ci farà piacere se vive, perché no, ci mancherebbe altro. Già pagato, già va bene, già una cosa buona, Ma già andate con le risate con il genio. Carlo, parlo io. Ah no, è sbagliato, è un altro che sente che l'altro di... Due le propagazioni arrivano a ponte sul 45, no? No, da Sicilia, sono macchiette, noi accanto a Sellurbì, in Chivi, di dove Sellurbì hai tagliato. Ho mica detto pure ai continenti in Sicilia, che sono in Sellurbì, vicino alla Etto. Ah, ecco, vuol dire che sono modulato vicino a lui. Vuol dire che non sa cosa vuol dire preparazione. Non ti conosce mai, tu devi far fare non ti conosce mai, no, quando c'è il nome attivo sì, ma se lo dice cosa, madonna. Attenzione canale 5, attenzione 5, attenzione. Pronto, tu sei. Attenzione canale 5. Grazie. Buonasera a tutti Marco. Si può avere un controllo del segnale radio? Guarda. D'accordo, ti ringrazio, riprendete. Non so chi ci fosse. Penso non c'era nessuno, va. Ok Marco, bene. Controllo di modulazione, Marco. Piazzale segna adesso. SMBM. KMBM. Positivo. Positivo. Come ti arrivo io? Bene, bene, però qua non c'è Smitter. Sto usando un apparato piccolo in prova. Non c'è nessuno oggi, credo trovare la gente sul 20 o sul 45, ma qua c'è nulla. No, oggi non ci sta nessuno. Io poi non entro da... quando è? Da mercoledì o giovedì, mi pare. Cappa. La radio è buona comunque, sì? Buona. Cappa. Va bene. Ok, Marco. Io faccio un giro di canali, vedo se c'è qualcosa da ascoltare, ma vedo che propagazione oggi no. C'è qualcuno in FM solo. Esatto. Ok, alla prossima. Ok, ciao Falchetto, guarda che ti saluto. Ciao, alla prossima. Ok, comunque modulazione buona, tipo Superstar, roba del genere, Galaxy. Cappa. Ok Marco, alla prossima. Falchetto ti saluto. Ciao. Problemi al mic? Non so, sto uscendo bene. Sì, nel complesso sì, ogni tanto solo sente un po' di tipo così. Tipo quando, non so, la corda del mic tira un pochino, no? Quando fa scarichette. Ma nel complesso è buono. No, stavo lavorando. Va meglio adesso, sì. Che dire, qua eri già, penso, fondo prima. E comunque è un'ottima modulazione, effetto presenza. Tipico di Superstar, Pluto, o quello che è. Che apparato è? Un Alan. Ah, modello? 87. Caspita, buona, molto buona. Oh, lasci difendere. Io mi muovo da qui, tanto non c'è un'anima in giro da Sassari. C'è solo propagazione Spagna e Portogallo. E nemmeno tanto alta. No, infatti, ero su 16, ho fatto questo con la Spagna, ma roba breve proprio, perché erano basse anche loro. Ecco che vado via, me ne vado a dormire, che oggi è giornata, mi. Cappa, dai. Ho 144 quando lo fai. E alle prossime. Ciao. Oh, per la cronaca, stavo provando Lafayette Hermes, no, che Hermes, Lafayette Ares Pro, che è una ciofechina, ma funziona, trasmette, riceve. E non prende nemmeno tanto QRM. Ah, buono. Va più che bene. Guarda, è grande come due pacchetti di sigarette affiancati. Ehi, che antenna c'hai? Una Midland M145 con base magnetica, 1,60 m. Cappa. Vanno bene. A me sarebbe piaciuta la Turbo 2001, ma stilo troppo grosso in tutto, bobine, poi è così. Se la metto in base magnetica, becco un albero basso e stacca la base, perché lo stilo rimane dritto da quanto è grosso. Sì, no, ma poi non è da mettere con la base magnetica la 2001, è una tenda molto pesante, già attaccando la basetta è già pesante in se stessa e può far danno alla carrozzeria. No, non viene la tendina così con la base magnetica e già vanno bene, dai. Le ho viste da Fusaro, pensa che non sapevo che Fusaro avesse baracchini. Guarda, lui aveva baracchini, tenne, lemme, sia da macchina che da casa, base magnetiche, chissà cos'altro. Sì, è roba che ha preso da poco, prima non aveva niente, sono tutte cose che ha acquistato da poco, neanche un mese a questa parte. Forse ti sei recuperando poco, adesso proviamo. Ah, io ho preso così. Massimo movimento. Cappa movimento, via Luna e Sole. Cappa, è da segnale oscillante. Cappa. E si sta un po' dandoci da fare anche lui, già ricomviene. Perché poi se no comprare fuori 10 o 15 euro di spedizione, magari per un apparato, cominciano a convenire più. Non conviene, no. La preferenza è meglio che lo attassi con le mani, lo vedi con gli occhi, e perché questi internet non è che siano cose molto buone, la verità si dica, migliorate, gliene sta lavando. Conviene solo andare, guardarle, papparle con le mani e via dicendo. E almeno sai cosa stai prendendo. Vabbè, io ho provato questo per l'altra barra mobile fissa, se non che io ho l'Albrecht 5008 che è tutto un altro pianeta. Chiappa. Comunque un difettuccio c'è in questo apparato. Praticamente quando prendi la trasmissione ha 200 millisecondi di ritardo. Cioè quando premi inizia a trasmettere che sei a livello di millisecondi. Sì, e poi c'è anche un difetto che ti fa mancare un po' il segnale, la modulazione, capito? È molto tardiva, molto tardiva. E infatti l'ho notato adesso che stai modulando, perché quando moduli tende a scomparire un po' la modulazione, ecco, il segnale, dai, più che altro. Infatti, ma chissà che non fosse meglio l'Alan 100 Plus, ma i componenti di computer di una volta, è un po' più lungo, molto più lungo, quello che mi scusa. Grappa, ci vuole un apparatino anche un po' più simile, giusto se vuoi uscire di avere una buona modulazione, ci vuole un apparato un po' più simile. Quindi sono piccolini, sì, trasmette, ma secondo me sono giocattolini, dai. Cazzo, ma infatti il 5008 è una bomba, ha le bande laterali, è piccolo come un autoradio, non c'è paragone, è che quello non lo lascio fisso, fisso in macchina, se non me lo rubo, e se rubano quello sono soldi. È normale che bisogna staccarlo quando si rientra. Capito, anche questo già è abbastanza completo, cioè 400 canali a voglia del canale. Io sono arrivato, ti saluto, ci sentiamo le prossime, magari sul 20, 21, insomma, vabbè. Buonanotte, 7351. Buonanotte, 7351, anche a te. Alle rosse, ciao, banchetto di nuovo, ti saluto. Ok, ciao. Attento Domenico Tarzaletto, mi ascolti o non mi ascolti? Tarzaletto, dove sei? Meserios, non sei arrivata, Meserios? Domenico, stai arrivando a Meserios, scappa di noce, dai, la cosa è bella, dai.